Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Tutti parlano del 18. Voi vi aspetterete che io parli del 18, l'articolo 18. In realtà la cosa che vi voglio dire è che tra la finanziaria del 2014, che poi si chiama stabilità, legge di stabilità, e la finanziaria del 2015, il 18 non è l'articolo dello Statuto dei lavoratori, di cui pure parlerò tra poco, ma sono i miliardi di euro che noi tagliamo come tasse. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tanto per iniziare questa settimana è stato l'annuncio di Renzi oggi all'Assemblea dei Confindustria a Bergamo, tutto incentrato sul numero 18, ma per far scordare almeno per qualche attimo, soprattutto per i detrattori, ha puntato sul 18 come taglio in numero di miliardi in tasse da tagliare. Appunto, un annuncio forte questo, poi ne parleremo. Un'altra notizia politica che in realtà è passata molto, diciamo così, in terz'ultimo, quart'ultimo piano, anche di più, è questa proposta che il leader della Lega Salvini ha fatto, intende fare a Grillo. Dice: 5 Stelle propongono una battaglia contro l'euro e io chiedo un incontro ufficiale a Grillo per confrontare le nostre posizioni sull'euro, sull'immigrazione, sulle proposte di riduzione delle tasse da parte della Lega. Accetterà, dice Grillo, questa nostra proposta? Può essere una possibile liaison tra la Lega e Grillo e il Movimento 5 Stelle o un amore impossibile? Voi potete esprimere le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, sempre lì ferma, non si muove, sempre a vostra disposizione a qualsiasi ora, oppure quando siamo in diretta anche attraverso i messaggi al 349-238-6666 su questo argomento e sui molti altri che tratterò tra poco. Intanto vi riassumo come sempre all'inizio le notizie più importanti della giornata. Renzi all'Assemblea di Confindustria annuncia per le imprese il taglio dell'IRAP per 6,5 miliardi e 3 anni a 0 contributi per i neoassunti. Per la Corte dei Conti il nuovo quadro però non basta per il rilancio e la crescita. L'allarme maltempo continua sulla Liguria, interessa il Piemonte, ma si sposta anche verso Toscana ed Emilia, allagata Parma. Ebola, primo caso sospetto probabile a Bruxelles. Dopo i casi di Madrid e Dallas, rischio psicosi in Italia, falsi allarmi a Roma e a Milano. La lotta all'ISIS, contrattacco curdo a Koban, raid della coalizione in Iraq, e la Turchia nega le basi aeree agli Stati Uniti. Il debutto di Fiat Chrysler a Wall Street, parte bene poi rallenta, incidente sulla Catania-Siracusa, un tir travolge 4 operai dell'ANAS, 3 morti e 1 ferito. Arriva la Costituzione per Internet, dal 27 ottobre tutti i cittadini potranno contribuire alla piattaforma per decidere le regole per i diritti su Internet. E poi il premio Nobel per l'economia al francese Jean Tirole dell'Università di Tolosa per i suoi studi sulla regolazione della competizione e monopoli. E poi il calcio, Malta-Italia questa sera in campo, partita di qualificazione per gli europei 2016. Partiamo quindi dall'intervento del Presidente del Consiglio Renzi a Nembro, vicino Bergamo. Bergamo, all'Assemblea di Confindustria, non c'è solo l'articolo 18 di cui parlare, l'avete sentito, sottolineato, nella prossima legge di stabilità ci sarà una riduzione delle tasse di 18 miliardi, così assicurato agli industriali. Poi la novità, ha detto, chi assume a tempo indeterminato non pagherà i contributi per i primi 3 anni. Incentivi che permetteranno per un triennio di non pagare contributi a chi fa assunzioni a tempo indeterminato. È la prima volta che si tenta questa strada. Io vi dico, togliamo per i nuovi assunti l'articolo 18, togliamo il peso fiscale per i primi 3 anni. Con questa doppia operazione noi vi sfidiamo, cari imprenditori. Chi se lo può permettere? Chi in questo momento è in condizione di farlo? E poi riprenderemo questo tema più ampiamente dopo con un ospite. Intanto c'è allarme sui conti pubblici da Banca Italia, che sprona il governo sulle riforme. Allarme sui conti pubblici da Banca Italia, Istat e Corte dei Conti. Si sprona il governo a continuare sulla strada delle riforme durante le audizioni alla Camera sul DEF. Per il vice direttore di Banca Italia Federico Signorini, se si devia dall'obiettivo di pareggio di bilancio, l'ok dell'Unione Europea non è scontato. Le previsioni macroeconomiche incluse nella nota, pur se nel complesso condivisibili, presentano rischi rilevanti al ribasso. L'ammissibilità della deviazione dal sentiero di avvicinamento al pareggio strutturale non è scontata e rifletterà l'interpretazione delle regole da parte delle istituzioni coinvolte, prima di tutto il Parlamento stesso, poi la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea. Per l'Istat il PIL nel 2014 si attesterà a meno 0,3%. L'Istituto Italiano di Statistica disegna anche alcuni scenari. Sul fronte dell'occupazione, se si tagliassero i contributi contributi a carico delle imprese si potrebbe arrivare a una crescita dell'1,6%. Il presidente Giovanni Alleva illustra anche l'impatto del bonus IRPEF. La misura porterebbe a una lieve riduzione della disuguaglianza economica e del numero di poveri, circa 97.000 famiglie povere in meno rispetto allo scenario base del 2015. Per la Corte dei Conti invece bisogna continuare sulla strada delle riforme per stimolare la crescita. Dal calo dei tassi poi emergono circa 6 miliardi di risparmi non conteggiati dal governo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo ora dell'altra notizia in primissimo piano in questi giorni, che è l'allarme maltempo dopo il disastro avvenuto a Genova. Sempre condizioni critiche per la Liguria e condizioni meteo molto pesanti riguardano anche il Piemonte e l'Emilia Romagna. Pizzarotti, il sindaco di Parma, dice non risultano morti e dispersi, facendo un po' il punto sull'alluvione che sta interessando la città. Però cerchiamo di capire in che situazione si trova attualmente Genova, perché vedevo poco fa un'agenzia di una dichiarazione del capo della Protezione Civile Gabrielli che dice continua la criticità nella Liguria anche se dopo la mezzanotte l'allerta si attenuerà, la situazione non è comunque confortante. Quindi è così, Andrea Ferro da Genova. Ciao Andrea. Sì, buonasera Roberta, ti parlo da Borgo Incrociati, che praticamente è stato l'epicentro di questa alluvione. Per quanto riguarda l'aggiornamento delle condizioni meteo, volgo lo sguardo verso il cielo, vedo nuvole, a tratti il cielo sereno. Per quanto riguarda invece le condizioni del torrente che scorre qui accanto a me, il Bisagno è placido e non occupa neppure per intero il suo letto. Una notizia che invece riguarda lo Spezzino, e forse Gabrielli faceva riferimento a questo ambito, lì viene segnalata una criticità ancora sul fronte della Val di Magra e la Val di Vara, anche se però le condizioni meteo nell'arco della mattinata di domani dovrebbero migliorare. La notizia di servizio che avevamo dato nell'edizione del GR delle 19, la confermo, le scuole domani sono chiuse, o meglio, gli istituti sono aperti ma l'attività didattica è sospesa. Questo è il segnale di come la città fatichi ancora a tornare verso la normalità. E poco fa il sindaco ha anche messo un'ordinanza che sbarra ancora per una giornata i parchi e i musei, poi ci sono servizi di bus limitati e anche la metropolitana effettua il servizio solo nella tratta tra Brin e Di Negro. Oggi è stata una giornata di paura, intorno alle 15 abbiamo tremato, una bomba d'acqua si è abbattuta prima sul ponente poi sul centro. Il centro era già stato praticamente abbandonato dai volontari e anche dalle forze di polizia perché si temeva che questa bomba d'acqua flagellasse una parte della città già ferita. Invece è durata solo 10 minuti e quindi non ci sono state le conseguenze che in qualche modo temevamo. Sul fronte dei collegamenti, e chiudo, è stata riaperta la ferrovia per Torino e Milano e anche quella per Ovada. Un'altra notizia dell'ultimo istante: giovedì prossimo si svolgeranno i funerali di Antonio Campanella, la vittima di questa alluvione, e giovedì prossimo per Genova sarà una giornata di lutto cittadino. Per il momento da Borgo Incrociati ho terminato, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro. Parliamo di un'altra emergenza che fa paura, quella di Ebola. Dopo i casi di Madrid e di Dallas, infatti ci sono stati vari falsi allarmi anche in Italia. Subito rientrati due allarmi Ebola scoppiati in giornata in Italia. Il primo a Roma, dove in un ufficio immigrazione un cittadino somalo si è sentito male con convulsioni e perdita di sangue dal naso. Portato all'ospedale Umberto I, i medici hanno escluso un contagio da Ebola e diagnosticato per l'uomo, che da 2 anni vive in Italia, un attacco epilettico. Stesso copione a Milano, in tribunale, dove un ghanese senza fissa dimora, sotto processo per direttissima per un presunto furto di rame, ha avuto un malore in aula con perdita di sangue dalla bocca. Il giudice ha disposto per l'uomo il ricovero all'ospedale Sacco e la chiusura dell'aula delle direttissime. Anche in questo caso per il paziente i medici hanno subito escluso un contagio da virus Ebola. È evidente che la paura in Italia è grande dopo i casi delle infermiere infettate a Madrid e a Dallas. Intanto si apprende che Ebola può essere trasmesso sessualmente anche dopo la guarigione. Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie ha infatti rivelato che il virus è stato isolato nello sperma umano fino a 7 settimane dopo la guarigione. Per questo motivo il centro ha raccomandato agli stati membri UE di escludere dalle donazioni di sangue, organi e cellule le persone che si siano recate negli ultimi 60 giorni nei paesi a rischio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in serata è arrivata la notizia di un primo caso sospetto di, definito probabile di Ebola a Bruxelles. Lo comunica il Ministero della Salute belga, confermando che nel pomeriggio è stato ricoverato all'ospedale Saint-Pierre, specializzato in malattie malattie tropicali un paziente che a inizio mese si trovava in Guinea e che ora ha i sintomi del virus. Però adesso dovranno passare sotto esame 48 ore per capire se effettivamente il paziente ha contratto Ebola o meno. E poi la lotta al terrorismo. La Turchia nega agli Stati Uniti l'utilizzo delle basi aeree per i raid anti-ISIS, smentito quindi l'annuncio di un accordo arrivato oggi dagli Stati Uniti. Nel frattempo i miliziani curdi che difendono Kobane nel nord della Siria hanno lanciato un contrattacco contro l'ISIS, riconquistando alcune posizioni grazie al sostegno dei raid della coalizione internazionale. Di questo poi torneremo a parlare. Invece adesso cerchiamo di capire quali sono state le prime conclusioni del sinodo sulla famiglia. Nel sinodo è risuonata chiara la necessità di scelte pastorali coraggiose. Così il relatore generale, il cardinale Erdo, sintetizzando la prima settimana di dibattito tra i padri sinodali. Sulle ferite della famiglia, questo l'orientamento emerso, occorrerà procedere con discernimento, valutando caso per caso, partendo dall'effettiva realtà delle fragilità familiari. E così, nello spirito del Concilio Vaticano II, si dovrà riconoscere che anche al di fuori del matrimonio cattolico esistono parecchi elementi di santificazione, nei matrimoni civili ad esempio, ma anche nelle lunghe convivenze. Quanto ai divorziati risposati, sono emerse anche delle aperture in merito all'accesso ai sacramenti, a condizioni ben precise, tuttavia, seguendo in alcuni casi un cammino penitenziale. Sulle unioni omosessuali, i padri sinodali hanno ribadito che non possono essere equiparate al matrimonio e sono tuttavia una sfida per la Chiesa, che vede nei gay persone che hanno qualità da offrire alla comunità cristiana e si chiede se le comunità siano in grado di essere per loro una casa accogliente. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio adesso è arrivata una notizia attraverso le agenzie. A partire dal prossimo 31 dicembre, quindi l'ultimo giorno di quest'anno, coppie dello stesso sesso potranno celebrare il loro matrimonio anche in Scozia. Quindi anche la Scozia si è aperta ai matrimoni gay. Però dalla Scozia andiamo restiamo in Italia. L'avvento, parliamo di un incidente avvenuto sull'autostrada Catania-Siracusa. Secondo le prime ricostruzioni, un tir ha investito un gruppo di operai che stavano lavorando per conto dell'ANAS su una corsia d'emergenza. Tre sono morti, mentre una quarta persona è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania in gravissime condizioni. E poi la Francia, ecco questo stavo guardando, la Francia che si aggiudica il premio Nobel per l'economia, assegnato al professor francese Jean Tirole dell'Università di Tolosa. Tirole è uno dei più influenti economisti del nostro tempo, spiega l'Accademia Reale delle Scienze svedese, ed è stato premiato per gli studi nel campo dell'economia industriale, in particolare per l'analisi sulle forze di mercato e sulla regolamentazione. E adesso invece direi di capire che cosa sta combinando dai pochi minuti in cui è iniziata la partita dell'Italia contro Malta. Come va Giovanni Capuano? Ciao, sta andando bene. Sta andando con l'Italia che è avanti 1-0, siamo arrivati al 29esimo del primo tempo ed è stato un inizio lento, poi all'improvviso dopo una ventina di minuti di nulla, nei quali addirittura era stata Malta a rendersi pericolosissima con un tiro di Failla che aveva sfiorato il palo all'assenza di Buffon, improvvisamente si è accesa la luce e l'Italia ha colpito nell'arco di 30 secondi, prima una traversa con Pellè e poi un palo con Chiellini e poi al 23esimo ha trovato il gol del vantaggio con Graziano Pellè, che è nella serata del suo debutto in azzurro a 29 anni, un giocatore che non ha mai giocato nel campionato italiano, ha sempre girato in squadre estere, soprattutto in Olanda. Adesso gioca in Inghilterra nel Southampton, Conte l'ha chiamato e Pellè di rapina ha messo la palla in rete, pensa che avevamo comunque colpito il terzo palo ancora di testa e quindi sarebbe stato un inizio davvero sfortunato. Invece è arrivato il gol del vantaggio contro Malta, dunque Italia avanti per 1-0, Italia anche in superiorità numerica perché pochi istanti dopo l'arbitro, che è un romeno, ha espulso in maniera certamente affrettata il capitano di Malta, Mifsud, e dunque Malta, che si trova in 10 uomini a giocare per circa un'ora, compito assolutamente in salita per loro. Questo punto assolutamente in discesa per noi. Saluto Alberto Rioli, ciao Alberto. Buonasera a tutti. Vice direttore del Sole 24 Ore, che adesso ci farà capire bene, contestualizziamo insieme quello che ha detto Renzi oggi all'Assemblea di Confindustria vicino Bergamo a Nembro. Ha detto delle cose importanti, mi sembra, dei numeri abbastanza altisonanti, no? Il taglio di 18 miliardi di tasse, poi 6,5 miliardi tagliati sul costo del lavoro per quanto riguarda le imprese, per i neoassunti, per i primi tre anni non pagheranno i contributi le imprese. le pagherà lo Stato. Vogliamo intanto sentire giusto qualche passaggio e poi cominciamo a parlare, Alberto. L'impegno che noi prendiamo e al quale dedichiamo il residuo delle cifre che vi ho detto, i 18 miliardi complessivi dell'opera di riduzione che mercoledì approveremo in legge di stabilità, è che dal 2015 viene abolita la componente lavoro dalla tassa dell'IRAP, che vale circa 6 miliardi e mezzo di euro, ed è un impegno che io voglio dirvi qui di fronte a voi per avere in modo chiaro il messaggio che l'Italia cambia davvero e che si sceglie di cambiare davvero. Quindi questo taglio da 6,5 miliardi per quanto riguarda l'IRAP. Poi vi dicevo, sentiamo anche proprio dove conferma questa cosa dei neoassunti. Incentivi che permetteranno per un triennio di non pagare contributi a chi fa assunzioni a tempo indeterminato. È la prima volta che si tenta questa strada. Io vi dico, togliamo per i nuovi assunti l'articolo 18, togliamo il peso fiscale per i primi tre anni. Con questa doppia operazione noi vi sfidiamo, cari imprenditori. Chi se lo può permettere? Chi in questo momento è in condizione di farlo? Quindi sfida gli imprenditori, ma cosa dice la leader della CGIL Camusso? Stiamo facendo una cosa che spero faccia contenta la Camusso come tutti gli altri italiani, e cioè stiamo riducendo le tasse. Per la prima volta nella storia del nostro paese, tra la legge di stabilità, la vecchia finanziaria del 2014 e la legge di stabilità del 2015, c'è una differenza di 18 miliardi di tasse in meno. È una cifra che io credo sinceramente unica. Andremo a intervenire a rendere fissi gli 80 euro, come sapete, l'avevamo promesso, ci eravamo impegnati. Toglieremo la componente lavoro dall'IRAP. Coloro i quali nel 2015 assumeranno giovani, ma anche meno giovani, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, avranno per tre anni la possibilità di non pagare i contributi. In realtà è quello che Renzi voleva dire a Camusso, sperando di suscitare, insomma, delle reazioni positive. Sentiamo veramente la Camusso adesso. E voglio che tutti stiano da questo punto di vista tranquilli. Anche lo sciopero generale sarà una delle cose che metteremo in campo. Anche lo sciopero generale sarà una cosa che metteremo in campo. Quindi, Alberto Orioli, hai sentito un po' le varie dichiarazioni di Renzi, importanti, però la leader della CGIL Camusso a quanto pare non è soddisfatta. Spiegaci un po' tu anche la fattibilità di queste proposte di Renzi, le coperture, no? Si dice da tanto tempo ci sono le coperture per fare queste cose. Beh sì, la cosa più importante è quella, verificare le coperture, però l'abbiamo già visto l'altra volta, quando Renzi fissa la bandierina poi costringe tutta la macchina amministrativa e la creatività dei suoi ministri a cercare di mantenerla in piedi. Quindi è successo con gli 80 euro e dovrebbe succedere auspicabilmente anche con questo annuncio di oggi, che è sicuramente un annuncio molto molto importante. Già bisogna dire che la legge di stabilità è fatta per 11 miliardi e mezzo con deficit al di là, oltre i paletti che l'Europa ci ha posto, e quindi già la finanziaria, chiamiamola col vecchio nome, deve essere ratificata in sede europea. E oggi proprio la Banca d'Italia, in un'audizione in commissione, nel spiegare i limiti del quadro macroeconomico, si è mostrata abbastanza pessimista sulla possibilità che l'Europa possa dare via libera a questo tipo di operazione. È chiaro che ci vuole un po' una forzatura politica che il Premier Renzi ha mostrato di voler fare in alleanza anche con la posizione dei francesi, quindi probabilmente le coperture verranno trovate, perché staremo un pochino al di qua, un pochino oltre, diciamo così, i paletti di Bruxelles. Senti, poi però ho visto la Corte dei Conti, tramite la voce del Presidente della Corte, Raffaele Squitieri, che oggi in audizione alla Camera ha detto il DEF, quindi il documento di economia e finanza, prefigura un cambiamento nell'impostazione della politica economica, ma restando per ora alla dimensione dei saldi, il peggioramento programmato, per quanto importante, non appare tale da imprimere di per sé un impulso risolutivo per il riavvio della crescita. Ma lì, diciamo, secondo me la Corte dei Conti che si mette a fare la congiuntura non è proprio il mestiere suo, diciamo la verità. Quindi bisogna vedere, ci sono una serie di parametri, di moltiplicatori, ci sono diversi modellini macroeconomici che girano sulla base di questi quadri, del quadro macroeconomico di disavanzo e di debito, e altri invece preconizzano un qualche movimento del prodotto interno lordo, anche se bisogna dire diciamo, da questo punto di vista la Corte ha ragione, perché anche l'Istat ha spiegato che andremo nell'ultimo trimestre dell'anno, che forse riusciremo a far fare al prodotto interno lordo un più 0,1, ma in ragione d'anno il calo sarà comunque dello 0,3, quindi effettivamente l'Italia resta in recessione. Cioè resta in recessione per questi trimestri e forse esce dal tunnel verso la fine dell'anno e approccia il 2015 con un lievissimo segno positivo, ma di lì a creare quella crescita che servirebbe per creare i costi di lavoro, che almeno i 2 punti percentuali ce ne corre. Certo, un tipo di interventi come questi di oggi massicci su un abbattimento del cuneo fiscale sulle assunzioni sicuramente è un tonico, una vitamina per gli investimenti e per l'occupazione, non c'è dubbio. Invece, per quanto riguarda la legge di stabilità, quando si parla di tasse, insomma, credo che sia una musica il taglio delle tasse piacevole alle orecchie un po' di tutti. Sentiamo che cosa ha detto a proposito di questo. Tutti parlano del 18. Voi vi aspetterete che io parli del 18, l'articolo 18. In realtà la cosa che vi voglio dire è che tra la finanziaria del 2014, che poi si chiama stabilità, legge di stabilità, e la finanziaria del 2015, il 18 non è l'articolo dello Statuto dei lavoratori, di cui pure parlerò tra poco. Ma sono i miliardi di euro che noi tagliamo come tasse. L'Italia, con questa legge di stabilità, compie la più grande opera di riduzione delle tasse mai tentata. È così? Alberto? Beh, indubbiamente, in ragione d'anno sono cifre molto consistenti, perché 6 miliardi e mezzo di abbattimento della componente IRAP sul costo del lavoro, che è una cosa che le imprese chiedono da tempo e che considerano un fardello iniquo, e che perché è una tassa sull'occupazione, uno sgravio totale per i primi 3 anni per i neoassunti con contratto a tempo indeterminato è un'altra cosa cospicua che non è stata cifrata, perché dipende ovviamente da quant'è il tiraggio della nuova occupazione, ma comunque stiamo parlando di svariati miliardi anche in questo caso. Il contributo di 500 milioni per le famiglie numerose, unito alla conferma degli 80 euro che vale 10 miliardi, indubbiamente c'è una mobilitazione di risorse a favore di una redistribuzione fiscale molto molto forte. È chiaro che il pandan di questo tipo di operazioni è naturalmente una flessibilità maggiore nei conti pubblici rispetto ai vincoli europei e dall'altra anche una lotta all'evasione fiscale che possa portare risultati concreti e rapidi. Quindi prospettive, ottime intenzioni, bisogna vedere poi la fattibilità. Attendiamo fiduciosi. Come sempre, incrociamo le dita. Grazie, ciao Alberto Rioli. Arrivederci. Occupiamoci adesso invece del maltempo. La Liguria, dicevamo, è in tilt, travolta dall'alluvione, dalle terribili condizioni climatiche di questi giorni. Vi dicevo prima il capo della Protezione Civile Gabrielli, il quale ha dichiarato: sì, si è un po' in attenuazione la situazione, però non illudiamoci perché è ancora abbastanza grave. C'è l'allarme anche nell'entroterra, l'autostrada 7 nel tratto verso Milano era stata chiusa per un'ora, in centro c'è stato lo stop alle auto, insomma avete sentito un po' che caos c'è. E poi il maltempo sta riguardando anche il Piemonte e Parma, però restando soprattutto sulla Liguria, abbiamo detto anche in questi giorni sono questioni di anni, no? Il dissesto idrogeologico, il fatto che l'opera umana ha creato tanti danni, si costruisce in luoghi dove non si dovrebbe costruire, quindi si sbancano anche colline, terreni, eccetera, non si puliscono i torrenti e così via. La procura intanto indaga per disastro colposo a Genova. Il presidente della regione Burlando dice che i danni superano i 300 milioni di euro, chiederemo lo stato di emergenza, ha detto Burlando, però i cittadini sono molto provati e anche molto indignati all'indomani di questo disastro, perché chiedono la testa del sindaco Doria e anche del presidente della regione Burlando. Perché naturalmente quando succedono queste cose c'è tutto uno scaricabarile, un rimpallo di responsabilità, chi è stato, c'è stata la mancata allerta. Allora vorrei coinvolgere su questo Erasmo D'Angelis, che ringrazio di essere in collegamento perché avrà molto da fare in queste ore. Buonasera. Buonasera, buonasera. Capostruttura di Italia Sicura, unità di missione voluta da Palazzo Chigi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Intanto sulla questione della mancata allerta, si è chiarito se davvero ci sono delle colpe o se è stato un avvenimento imprevedibile, D'Angelis? Diciamo, è successo a Genova, è successo a Firenze 15 giorni prima, è successo anche in altre situazioni, nel senso che c'è bisogno di aggiornare i modelli matematici sicuramente, perché siamo di fronte anche ad un dissesto atmosferico e quindi c'è bisogno di ricerca, di studio e di aggiornare probabilmente anche alcune metodologie. Su questo non c'è alcun dubbio, perché in pochissimo tempo tempo ci sono delle evoluzioni meteo davvero inaspettate, sorprendenti, e quindi insomma non è semplice prevederle, ecco, non è semplice nel mondo, non è semplice in Italia, dove pure abbiamo una classe di meteorologi abbastanza robusta, no? Abbastanza professionalizzata. Però c'è anche da dire, come si è ripetuto da questi giorni, come si ripete ogni volta, che c'è una fragilità idrogeologica di tutto il territorio, di gran parte del territorio italiano, di Genova in particolare. Sentivo, anzi avevo letto un'agenzia oggi, una dichiarazione del ministro dell'Ambiente Galletti, che ha detto: nei prossimi giorni, alla fine dell'approvazione dello Sblocca Italia, di questo famoso decreto, io potrò dire che un processo amministrativo su un contenzioso idrogeologico non può durare più di 8 mesi tra primo e secondo grado. Cioè c'è sempre questo problema spesso di soldi bloccati, di stanziamenti bloccati da inghippi giudiziari nella consueta gara di ricorsi al TAR. Che cosa ci fa un esempio di qualcosa che viene bloccato da cosa? Posso fare quasi 1600 esempi, nel senso che ce ne bastano due. Questa struttura opera, diciamo, da 3 mesi. La prima cosa che abbiamo fatto è fare un'analisi spietata dei conti dello Stato degli ultimi 15 anni. Abbiamo scovato, letteralmente scovato, 2 miliardi 300 milioni non spesi su circa 5 miliardi 800 milioni negli ultimi 15 anni investiti e, diciamo, in qualche modo vincolati contro il dissesto, però contro il dissesto idrogeologico, cioè una bella fetta di quei 5.8 miliardi non è stata spesa. Non è stata spesa, non se l'è presa nessuno e lì non è stata spesa. Diciamo il caso più clamoroso, sì, è sicuramente Genova, ma ne abbiamo un altro che pesa molto di più, che è il Sarno 1988, 170 morti, la frana in Campania, una tragedia che insomma è finita sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, tra le peggiori tragedie mai accadute. Bene, dal 1988 ad oggi non è successo assolutamente nulla, ci sono lì 247 milioni vincolati ad opere che non sono partite per appunto guerre legali, guerre locali, e appunto lì ci stiamo lavorando ora per... D'Angelis, però mi perdoni proprio l'ignoranza, che tipo di guerra ci può essere? Cioè, perché se ci sono dei soldi che sono spendibili per qualcosa, non perché qualcuno se li è intascati, ma sono bloccati lì, sono bloccati per contenziosi che partono sugli espropri o a ridosso, diciamo, dopo un'assegnazione di una gara, comunque diciamo è consuetudine italiana buttare lì un ricorso, no? Quindi poi si starà a vedere, però in genere questi ricorsi, come nel caso del Bisagno, fanno passare 2 anni e mezzo di una epopea giudiziaria. Qual era il ricorso sul Bisagno? Il Bisagno si è concluso. Questa mattina abbiamo dato uno stop, iniziano i cantieri. E sulla base del pronunciamento, l'ultimo pronunciamento del TAR del Lazio del 17 luglio scorso, si aspettavano le motivazioni della sentenza, che sono arrivate qualche giorno fa, e Burlando, in quanto commissario di governo, fa partire i cantieri, punto. Poi sì, è evidente che sono annunciati anche altri ricorsi sul Bisagno, perché non è finita, però intanto noi apriamo i cantieri e poi si starà a vedere, perché non è possibile continuare con questa telenovela. Infatti, D'Angelis, mi scusi, faccio una domanda. Questa norma di cui parlava il ministro dell'Ambiente Galletti è una norma che abbiamo inserito nello Sblocca Italia, e cioè per opere di questo tipo, nel senso che salvano vite umane, salvano beni, sono opere che tutelano l'incolumità pubblica, diciamo, nel momento in cui una gara, c'è cioè un'assegnazione ad una ditta, un ATI, ad un gruppo di aziende di un lavoro, i lavori partono, poi i ricorsi, in qualche modo non c'è sospensione, ci può essere sospensiva, i lavori partono, in qualche modo poi il contenzioso, poi al termine di questa lunga storia giudiziaria un po' all'italiana, verranno definiti, però ci saranno delle compensazioni, ma intanto l'opera va a concludersi. Questo, per la prima volta in Italia, adottiamo un sistema, come dire, che cambia quasi tutto, e per noi significa poter mettere in pista qualcosa come 1600 opere che attualmente sono bloccate per un motivo o per un altro, ma soprattutto per guerriglie legali. D'Angelis, speriamo che questo sia l'inizio di un circolo virtuoso, possibilmente. Speriamo, però, perché noi siamo mesi che discute di queste cose, più o meno per 5 giorni dopo gli eventi. E poi dopo esatto, noi dobbiamo abituarci, ora diciamo la struttura di missione è nata a questo, per impegnare tutto lo Stato 365 giorni l'anno su questo tema, no? E il nostro obiettivo è questo, abbiamo sbloccato tante opere, abbiamo recuperato soldi non spesi, ci aspetta un settennato europeo, un ciclo 2014-20 di investimenti dove bisogna spendere tutto e c'è un ritaglio di una spesa importante per far partire quella che da 2 decenni scriviamo in tutti i documenti, prevenzione, quindi iniziamo a fare un po' di sana prevenzione. D'Angelis, contiamo su di lei e sulla sua struttura, poi ci aggiorneremo su questo. Contiamo anche sul vostro supporto. Certamente, eccolo qua infatti, grazie, buon lavoro allora, grazie Erasmo D'Angelis. Buona serata. Roberta Giordano sempre con voi, le notizie, naturalmente quella in primo piano è gli annunci che Renzi ha fatto oggi da Nembro vicino Bergamo all'assemblea di Confindustria, taglia l'IRAP per 6 miliardi e mezzo, sgravi per i neoassunti, dice ora basta alibi, poi abbiamo parlato del maltempo, finora anche Parma tra l'altro tra fango e acqua, e poi c'è l'avanzata dell'ISIS con la Turchia che nega di aver concesso agli Stati Uniti la base aerea di Incirlik nel quadro della battaglia contro l'ISIS, come invece annunciato da Washington. Oggi Washington aveva detto la Turchia ci ha concesso queste basi e invece la Turchia poi ha smentito, e c'è questa posizione molto ambigua della Turchia e del presidente Erdogan, perché da una parte sembra che voglia combattere l'ISIS, poi però non entra dentro la coalizione internazionale che sta combattendo integralisti islamici dell'ISIS, e poi diciamo che probabilmente quello che più interessa alla Turchia è di alla lotta all'ISIS preferire una politica in funzione anticurda, sapete questo lunghissimo conflitto con i curdi che alla fine sembra stia più a cuore la Turchia. Coinvolgo Stefano Torelli, buonasera. Buonasera a voi. Ricercatore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, al quale voglio chiedere prima di tutto appunto la posizione della Turchia, sempre una questione di realpolitik, no? Non c'è mai niente di pulito in queste cose, di trasparente, di lineare, però la Turchia vuole in cambio qualcosa, dice che trova la scusa che in realtà con i raid contro i campi jihadisti in Siria si potrebbe rafforzare il presidente siriano Assad, principale avversario del governo turco, ma qual è la vera questione per la Turchia? Insomma, dobbiamo dire che non è del tutto errato, insomma, il fatto che insomma, non c'è per forza uno scopo nascosto, ecco, dietro al fatto che la Turchia dica che non vuole rafforzare il regime di Bashar al-Assad, perché la Turchia comunque ha detto abbastanza chiaramente che insomma, sarebbe anche disposta a unirsi a questa coalizione capeggiata chiaramente dagli Stati Uniti contro l'ISIS, però nel quadro di una strategia più ampia, di una visione più di lungo termine che abbia come obiettivo ultimo appunto proprio la caduta, l'hanno detto senza mezzi termini diplomatici turchi del regime di Bashar al-Assad. Quindi questo direi che comunque è un elemento che va preso in considerazione e che è un elemento vero in effetti. Dall'altro canto invece c'è, come accennava anche prima, invece l'altra questione che interessa chiaramente la Turchia, che è quella della questione curda che sostanzialmente da qualche anno a questa parte sembrava abbastanza sopita, se così possiamo dire, perché non è mai una questione realmente finita per la Turchia, e che però insomma abbiamo visto come sta riemergendo con insomma una certa importanza e anche urgenza per Ankara. Quindi è vero che vi è anche il problema curdo per la Turchia. Torelli, però le voglio chiedere una cosa, si usa dire ormai da tempo chiamare l'ISIS lo Stato Islamico, sì. Chi ne è vittima dice non chiamatelo Stato perché gli date uno status effettivamente, no, di Stato, un riconoscimento anche internazionale, questo chiamiamolo invece integralisti islamici dell'ISIS, sì. Che anche a me personalmente sembra più corretto nel mio piccolo, ma quanti territori, quante aree sono controllate in questo momento dall'ISIS, tanto per darci un'idea? Sì, Allora, vabbè, chiaramente soltanto un commento proprio brevissimo sul sì. chiamiamolo o non chiamiamo Stato Islamico, è una questione abbastanza, è più semantica che altro, chiaramente, nel senso che diciamo loro stessi insomma si chiamano così, chiamarli in questo modo anche da parte nostra non vuol dire assolutamente insomma riconoscerne la legittimità come attore statale, chiaramente, ecco. Però ecco, in effetti c'è un controllo del territorio non così ampio come alcuni possono pensare, però insomma abbastanza radicato tra l'Iraq e la Siria, con due roccaforti principali che sono la città di Mosul in Iraq, che è un po' la capitale di questo fantomatico califfato, se così vogliamo chiamarlo, e la città di Raqqa nella Siria, altra cittadina importante, che è un po' l'avamposto siriano, diciamo così, dell'ISIS, dello Stato Islamico o come vogliamo chiamarlo. Queste sono le due principali roccaforti urbane su cui si concentra il controllo territoriale dell'ISIS. Torelli, solo in un'ultima battuta, è vero che possono avere, come ha paventato gli Stati Uniti, anche possibili armi nucleari, potrebbero sviluppare? Sinceramente questo, ecco, sembra abbastanza inverosimile, non ci sono in realtà fonti che possano insomma invalidare questa tesi. È abbastanza inverosimile. Beh, sicuramente sono ben equipaggiati, ben armati, ma non a questo punto, no, non fino a questo punto, non direi fino al punto di avere armi non convenzionali, fino anche insomma nucleari, ecco. È già una buona notizia questa, ma torneremo a parlarne. Grazie intanto Stefano Torelli dell'ISPI, grazie. Grazie a voi. Europa 24 notte. I giovani sono la chiave del futuro dell'Europa, così dicono tutti, con la commissaria europea all'istruzione, cultura e gioventù, Andrulla Vassiliou, che lei stessa lo ha detto, che ha aperto oggi la conferenza europea della gioventù, evento centrale delle politiche giovanili nel quadro del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, organizzata dalla presidenza e coordinata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, dal Forum Nazionale dei Giovani e dallo European Youth Forum. La conferenza vede la presenza di oltre 250 partecipanti fra i direttori generali delle politiche giovanili dei 28 paesi membri dell'Unione Europea e delegati delle associazioni giovanili provenienti da tutta Europa. Too many young people feel their views are ignored by society and especially by policy and decision makers. Empowering them to play a stronger role in their communities and in political life must continue to be our priority. Sono troppi i giovani che pensano che le loro opinioni siano totalmente ignorate dalla società e dai politici. Occorre dunque sostenerli affinché svolgano un ruolo attivo nelle nostre comunità. Così la commissaria europea uscente all'istruzione, cultura e gioventù, Andrulla Vassiliou, aprendo la conferenza europea della gioventù a Roma, una 3 giorni dedicata ad un obiettivo principale: migliorare la partecipazione degli under 35 alla vita sociale e politica nazionale e comunitaria. Ma quali sono gli strumenti per favorire questa partecipazione? I social media, il volontariato, le campagne all'iscrizione ai partiti, ma anche l'accesso al lavoro, all'alloggio, ai sistemi di welfare e credito. Ma per il ministro del lavoro Poletti la chiave è ridurre le rendite di posizione per moltiplicare le opportunità di accesso al mondo del lavoro. Abbiamo un problema molto forte sul versante della possibilità effettiva dei giovani di avere opportunità, perché noi abbiamo bisogno di una moltiplicazione delle opportunità e per moltiplicare le opportunità dobbiamo ridurre le rendite, cioè dobbiamo ridurre tutti quegli elementi che tengono la società chiusa per parti, dove chi è dentro, chi ha avuto l'opportunità, impedisce a chi quell'opportunità non l'ha ancora avuta di poterla praticare. Quindi dobbiamo spostarci da una difesa di ciò che c'è ad una possibilità dinamica di relazione tra ciò che c'è e ciò che può esserci, quindi la partecipazione appunto responsabile e impegnativa dei giovani. In Italia e in Europa scontiamo due questioni critiche in campo giovanili. Secondo la parlamentare europea Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Politiche Giovanili, il taglio delle spese nei settori che maggiormente riguardano i giovani e la rappresentazione dei giovani visti come problema e non come risorsa. C'è una rappresentazione dei media, non del vostro, ma sicuramente di molta anche televisione che tende a, a non raccontarci i giovani di oggi, no? Cioè o le patologie o gli estremi. In mezzo c'è Erasmus che non viene raccontato, ci sono le start-up delle nuove generazioni, le opportunità che l'Europa dà e la frustrazione di un Parlamento europeo che avrebbe si è battuto per aumentare i fondi per la ricerca, per i giovani ricercatori, per gli artisti e creativi o per Erasmus, che queste esperienze non siano raccontate e non diventano cultura giovanile diffusa. La conferenza europea sulla gioventù avrà come risultato il lancio di una consultazione sulla partecipazione politica dei giovani e le proposte emerse in questi giorni verranno presentate per l'approvazione al Consiglio dei Ministri della Gioventù del 12 dicembre. Ma intanto da Roma arriva anche un messaggio ai tanti giovani volontari che in queste ore sono a Genova per dare una mano, così il portavoce del Forum Nazionale Giovani Giuseppe Failla. E da questa conferenza non può che andare loro un fortissimo abbraccio. Noi chiaramente in questo momento siamo qui a parlare anche della creazione di opportunità per i giovani volontari. Loro stanno dando la dimostrazione di come i giovani di questo paese non stanno soltanto a casa, ma sanno contribuire sporcandosi le mani nel fango di Genova e ricostruendo da una parte comunità e dall'altra parte anche prendendosi cura della loro città o comunque di una città italiana importante come quella di Genova. È un grande segnale di speranza e noi non possiamo che abbracciarli singolarmente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Male, mentre da una parte parlano di giovani, dall'altra parte i giovani si danno da fare concretamente. Adesso che invece come si stanno dando da fare i giocatori della nazionale Giovanni Capuano a Malta? Continuano a vincere 1-0 e questa è la buona notizia. Continua a decidere il gol di Pellè a metà del primo tempo, Pellè debuttante che dunque ha bagnato con un gol la sua prima maglia azzurra. Abbiamo preso un'altra traversa proprio all'inizio della ripresa con Candreva, un tiro cross che aveva ingannato il portiere di Malta, però complessivamente non è una bella partita e non è una bella nazionale, abbastanza deludente fin qui, sotto ritmo, sta creando pochissime occasioni, si è accesa con quel lampo a metà del primo tempo che ha portato i due legni colpiti e poi al vantaggio di Pellè e poi è tornata a giochicchiare con Malta malgrado i nostri avversari siano in inferiorità numerica 11-10, partita che non riusciamo e sembra che non vogliamo chiudere. Quindi presa un po' sotto gamba Malta, anche se non è una squadra da temere. Grazie intanto Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, noi ci sentiamo tra poco.